la ripresa tenterà di ristabilire questi canali, questo contatto. Adesso non so se vogliamo concludere oppure se c'è qualcuno che vuole intervenire. Sì. Thank you. altro convegno, forse più di un convegno. Sì, certamente. Certamente, sì. Voi risponderete. Comunque c'è Franco Ippolito che pure ha chiesto di parlare, potrebbe magari rispondere anche. Io molto brevemente. Mi riaccanto alla prima parte del discorso, quindi vorrei iscrivermi tranquillamente al partito dei nomi di conservatori, però stasera devo fare la parte invece dell'allarmista, perché ho notato con questo riferimento, per parte mia, per parte della Stanno di Turuzzi, di solito sono ottimista, ma non penso assolutamente che noi in questa sala possiamo ribaltare questa situazione. Cioè, noi possiamo evidentemente andare a fare qualche dibattito a persone che tutto sommato voteranno sicuramente per il no, riuscire a portare a informare qualche cosa in più, ma insomma io non mi faccio troppe illusioni. In sostanza tu hai toccato il problema reale, cioè il fatto che la Costituzione è crollata nel senso comune, soprattutto dentro il ceto politico, e c'è una perdita della Costituzione, un venir meno della Costituzione nell'orizzonte del senso civico, dopo 10 anni, 20 anni di logoramento costituzionale, rispetto al quale il processo di restaurazione di un senso civico è questione di anni e forse di decenni, non credo che... E quindi il problema è molto grave. Come al solito la cosa carina è la... Guarda che... non lo so qui come... Cioè, il referendum non è vinto manco per idea. Io faccio un passo indietro alle elezioni politiche. Anche qui un ricordo universitario, non nel corso di primo anno drammatico, corso di primo anno, ma nel corso di quarto anno, con studenti forse, si discuteva appunto sulle forme di governo, dei possibili esiti elettorali, non ovviamente scenari istituzionali. E dicevo, la catastrofe sarebbe un pareggio, istituzionalmente, un pareggio, Camera e Senato, un pareggio, per le ragioni che nel nostro sistema politico istituzionale un pareggio avrebbe determinato sostanzialmente la paralisi. E allora qualcuno mi dice, ma guardi, insomma, è stato scritto recentemente che il pareggio è tecnicamente impossibile, facciamolo. Il pareggio sarebbe tecnicamente impossibile. Io sì, ho letto questo articolo, e mi sembra sbagliato, perché secondo me il pareggio invece si può verificare. Inutile dire che dopo 15 giorni, che c'è stata una settimana di buco per consentire di andare a votare, dopo 15 giorni siamo rivisti, questi ragazzi sono fischiate le orecchie, cioè, il pareggio poteva esserci, ma è mancato per questo. E quindi, come dire, non abbiamo ascoltato nulla, ma proprio nulla, niente. L'unica cosa che secondo me può dare tranquillità è la divisione del campo avversario. Perché ho l'impressione che, io non credo, che ci sarà una straordinaria mobilitazione di pezzi molto consistenti tra di noi. Però, alto là. Quale della maggioranza? No, della maggioranza che ha approvato, la maggioranza che ha approvato questa legge. E poi non è detto, andiamo a rivoltare. Allora, però, quale potrebbe essere l'esito? L'esito potrebbe essere questo, che altrettanto nefasto, perché ci sono vittorie che sono qualche volta peggio delle sconfitte. Potrebbe essere questo l'esito, e cioè effettivamente vanno a votare in pochi, si vince, vincono i no, però tutto sommato il sentimento è che della Costituzione, posso dire una frase volgare, non gliene frega niente a nessuno, va bene? Allora questo è il punto. E allora questo è il risultato migliore, cioè non ho fatto passare questo proprio, ma ho le mani. No, scusa, questa è la carta. Stefano, la carta di Nizza, e io ti voglio tanto bene, ma insomma non siamo da... Comunque, questo proprio non lo faccio passare, però poi ho le mani libere. Per riprendere un discorso, io per questo ho detto quali sono gli obiettivi di fondo, quali non si dovrebbe puntare. Però certo, a un certo punto ci vuole la volontà politica, insomma, io non... Bisogna capire se si sbaglia o se si vuole sbagliare, io questo non lo so, ma allo stesso tempo non so rispondere all'interrogativo. E questo era molto noto che ci fosse nel piano della rinascita un radicamento, alcune riforme, eccetera, anzi questa va anche al di là, perché lì si prevedeva l'elezione del primo ministro da parte della Camera, invece qui l'elezione diretta da parte dei cittadini, insomma, vediamo anche molto. Però non saprei, lasciamo agli storici, insomma, per andare a vedere proprio come si sono legate tutte quante queste cose. Però ecco, il punto di fondo è questo, quindi la mobilitazione senz'altro. Certo, è mancato in campagna elettorale e effettivamente anche io ho notato il solo Prodi, un paio di occasioni è stato netto su questo tema. E noi potremmo trovarci di fronte a questo, paradossalmente, anche perché alzando i toni, questa è un attentato alla democrazia, eccetera. Ecco, questo è ancora più pericoloso, perché se io dico che qui si sta consumando un attentato alla democrazia e poi nessuno va a votare, vuol dire che non solo non gliene frega niente della Costituzione, ma manco della democrazia. E allora a questo punto uno comincia a preoccuparsi. Però tu ci hai detto di mobilitarci, ma Franco, noi ci siamo mobilitati, ma che dobbiamo fare? Vabbè, noi facciamo quello che possiamo. Facciamo adesso. Io ho dato la mia disponibilità a tante cose. Sostanzialmente d'accordo con la cosa di quel grado. Sostanzialmente d'accordo, però mi rode moltissimo a me la fatta. Per cui è chiaro che l'ipotesi che fa il massimo, se ne parla di andare in fuori, però è soltanto organizzato, cioè io voglio in modo che se fanno in fuori, quando è vero, io penso che con esso si chiede tanto forza. È illegibile, che è illegibile, cioè, il testo è illegibile. Thank you. siamo gli strumenti, l'unica cosa che dobbiamo fare è qualche appello, qualche cosa, però... che un po' denudi, diciamo, l'ignoranza di questo credo, ormai, da sempre, sono un po' ignoranza, io dare un'informazione, noi costituzionalisti, come associazione dei costituzionalisti, su mia iniziativa, abbiamo dato la nostra disponibilità alle scuole, al ministero, alle scuole, eccetera, per andare in giro per le scuole a spiegare cos'è la Costituzione repubblicana. Non mi ha fregato niente nessuno. Allora, scusate, io continuo a usare termini volgari, però insomma la volgarità ogni tanto, ecco. Insomma, la Costituzione, veramente, ecco. La Costituzione la stiamo perdendo, ecco, la stiamo perdendo perché effettivamente se la testa, il corpo segue la testa. Sta succedendo qui, ho capito bene, e mi sembra una cosa che ormai ci dice che c'è un'assoluta incapacità di distinzione di fronte a noi. Questo è un grande problema. Questo è, ormai non riusciamo più a distinguere quello che è il ruolo della politica. La verità è che la politica è stata, per un verso, diciamo le banalità, assorbita dalla sfera mediatica. E nella sfera mediatica questo discorso sulla Costituzione fa fatica ad entrare per molte ragioni. Sì, no, fa fatica a entrare perché non è riducibile, se non con grande sforzo, una grande decisione, per cui si dice noi o non andiamo più in questi teatrini o da oggi in poi parliamo soltanto in questo modo del referendum costituzionale. Questa è una decisione politica. Se uno deve andare a parlare con Castelli che dice che sono aumentati, che la spesa pubblica aumenta perché ci saranno 3 titolari del welfare, ai cittadini interessa che ci sono le auto blu di 3 invece che di un solo ministro, tu non ci devi andare più. Adesso io estremizzo e in questo senso vedo Poi non ti puoi affidare al consulente d'immagine per la Costituzione, per fare il manifesto. No, io in qualche modo rimpiango quello che facevano alcuni partiti, compresa la DC, e cioè che facevano un tipo, poi lo faceva abbastanza bene il PC, diciamo la verità, di cercare di spiegare qual era l'oggetto della contesa. Questo è il punto. Non si è fatto nulla. Io mi sono permesso di dire all'attuale ministro per i rapporti col Parlamento e le riforme, alle prime avvisaglie della campagna elettorale, voi dovete fare una cosetta sui numeri di Berlusconi. Cioè, era già dall'inizio del tutto evidente che lui si stava inventando qualcosa. E una volta si mettevano nelle mani di coloro i quali facevano le campagne elettorali i numeri per controbattere, e c'era una efficacia politica in tutto questo. Dopodiché abbiamo dovuto assistere, scusate, ma se no non vi dico, abbiamo assistito una sera al fatto che in televisione, in un dibattito, Bertinotti, di fronte a una domanda sulla copertura di non so che accidenti, ha detto ve lo diremo dopodomani. Ma non è possibile fare in questo modo. Allora, noi siamo in questo clima di fatica, di stress culturale e di nessuna voglia poi di andare in questa situazione a fare un discorso sulla Costituzione che è uscito dalla testa di chi fa questo, perché anche la selezione del ceto politico in quest'ultima fase, del ceto parlamentare, non ha avuto affatto l'attenzione. Da una parte si dice che noi vogliamo rimettere le mani, rifare, avviare, dall'altra non è stato fatto nessuno sforzo. Io mi sono guardato attentamente anche la lista dei sottosegretari, sperando che lì non c'è più nessuno. Allora, è vero che è scomparso questo pezzo di cultura, non di cultura costituzionale, di cultura politica. Cioè c'è un'amputazione in questo, è come se ci fosse stata una lobotomia, per cui vedo con grande fatica, io figuriamoci, fare delle cose in giro mi sembra indispensabile e utile, però ci sarà poi una mobilitazione delle ultime due settimane, faticosa, tutta un po' finta. Per cui uno deve solo affidarsi a che cosa? Alla provvidenza. Adesso no, detto questo, voglio andare sulla questione che mi interessa un po' di più. La cosa, perché ho detto la storia, il muro contro muro adesso, non è il muro contro muro come viene immaginato, perché è la contrapposizione della cultura politica democratica un altro tipo di cultura. Questo è il tema che pone il referendum, non ce ne sono altri. Qui c'è veramente un grande scontro culturale, e all'interno di chi fa la battaglia per l'abrogazione, certo che c'è un'ipotesi di ripulitura, di manutenzione, per carità, però devi uscire da alcune logiche che ci hanno avvelenato da anni. Io dico, il primo avvelenamento è stata l'idea che questa storia della Costituzione si doveva portare fuori dal Parlamento. E l'invenzione delle bicamerali è stato un disastro. Dopodiché questo, la passata maggioranza ha dimostrato che se si vuole la Costituzione si cambia in Parlamento, e che quello era un espediente di un ceto politico che non sapeva in che direzione doveva andare. Adesso, di nuovo, noi che cosa? O non c'è nessuna direzione, oppure c'è nient'altro che la sedimentazione di quello che è avvenuto negli anni. Adesso non voglio tornare alla bicamerale D'Alema, ma ci torno, che quello era stato un terreno d'intesa e che tutto sommato è da lì che si vorrebbe ripartire. Questo è il punto, perché questo mi pare, e questa è la debolezza, quando fai la campagna elettorale con questo retropensiero di cui tutti sono consapevoli, tu hai risultati scarsi. Mentre invece io, quando intendo il muro contro muro, non è il muro contro muro di chi dice non cambio neanche una virgola, perché le virgole le devi cambiare se non altro su questi accidenti di titolo quinto, e ci sono appunto gli interventi di manutenzione, passaggio al maggioritario, cose che diciamo da un secolo, ma non le storie dello statuto dell'opposizione. Permettetemi di dire pure questa cosa, che serva un Parlamento che funziona, non lo statuto in astratto dell'opposizione, dei procedimenti parlamentari più garantiti. Tu puoi fare tutti gli statuti dell'opposizione di questo mondo, ma quando tu permetti la presentazione di un emendamento di 50 pagine, che statuti dell'opposizione possono essere? Allora, rispetto, io vedo, scusate la gran confusione, ma sono un po' i costituzionalisti. C'era un momento in cui, per storie personali, perché questa cultura non era stata perduta, perché non c'era il discorso di pura mediatizzazione, per cui passa la battuta ma non passa l'analisi, in cui a un certo punto, io non mi ricordo, qui qualcuno sicuramente se lo ricorda, ci fu un appello di costituzionalisti firmato da primo firmatario Paolo Barile, che esce su Repubblica al posto dell'articolo di fondo. È riproducibile oggi? Questa è la domanda che io vi faccio. Questa condizione, secondo me, no. No, però ci si... Ecco, no, ma sto arrivando... Però ci si deve tentare. Questo è il punto. Io credo che sì, bisogna andare in giro, però uno, con il massimo di rapidità possibile, cercare di dare delle indicazioni individuali d'accordo. Molto meglio se questo viene da un minimo di, usiamo la parola, di aggregazione, che ridia voce ai costituzionalisti e responsabilizzi i costituzionalisti, attraverso loro dia anche al sistema dei media e alla politica l'idea che con queste cose bisogna un po' fare i conti, e fare i conti in una maniera che non è soltanto andare, vabbè. Quindi secondo me io non la vedo male. La vedo male anche, anch'io sono d'accordo sul se c'è un, anche se va a votare un po' più di gente, perché oggi dicendo noi comunque il percorso della revisione costituzionale lo dobbiamo riprendere, non è nello spirito della buona manutenzione della Costituzione, ma è nello spirito di dire vabbè, però altro che riprendere il tema parlamentare, altro che... No, però, lo sai, no, però Massimo, questo è un puro sfogo quello che io sto facendo, non è neanche un'analisi, è un punto però, secondo me, che abbiamo di fronte. Io mi sentirei di dire e di scrivere e di chiedere collettivamente che non si va più nelle trasmissioni televisive a fare questi giochetti, perché non è possibile, non possiamo vedere tutte le sere le stesse persone ad infinitum, perché ormai questo è diventato, non è più un fatto, perché si è creato ormai un qualche cosa di socialmente rilevante, per cui la stessa sera tu ti ritrovi un signore a Matrix che parla del calcio, cioè c'è una distribuzione di ruoli, sempre le stesse persone. Allora c'è un problema qui, che tu hai dislocato proprio la testa delle persone. Allora tu devi fare delle cose, dice, ah, tiriamo fuori i 4-5 andare a votare. Credo che capiscono soprattutto questo linguaggio, molto meno purtroppo, e quindi il discorso poi sull'andare a spiegare eccetera eccetera gli appelli sono cose che dovremo fare dopo, ma ai fini del referendum conta forse di più la necessità di costringerli a difendersi dalla ribalta di Berlusconi. Post nazionale riescano già da oggi, già nell'affrontare il voto referendario, anche se ci saranno larghissime alleanze anche sulla base di una mera lettura di queste norme scomposte e illogiche, questo settore abbia modo già da oggi di mettere in campo appunto dei temi che ci possono servire per il futuro lavoro. E quindi lo spunto per il mio intervento mi viene da un articolo di poco tempo fa di Stefano Rodotà, che Ida Domignani ha correttamente sintetizzato sul manifesto con il titolo Tra le due carte. Indicava Rodotà la strada della partecipazione al no alla campagna referendaria, cercando di non mettere in contrapposizione dimensione nazionale e dimensione comunitaria, ma anzi molto di più, di cercare di stringere la carta del 48 all'altra carta, ovviamente, e la carta di Nizza. Che cosa vuol dire questo? Beh, penso che, visto che fra un po' dovremmo partecipare a questi dibattiti, credo che l'uso dei toni, diciamo, da patriottismo costituzionale, anche se sappiamo che il termine normalmente patriottismo costituzionale è usato in modo positivo, però i toni da patriottismo costituzionale debbano essere usati con molta cautela, perché sarebbe veramente un peccato dare l'idea ai cittadini italiani, che notoriamente ne sono estranei per loro cultura e per l'adesione che fin qui hanno mostrato al progetto europeo, dare l'idea di una autosufficienza della nostra Carta Costituzionale. Cioè l'idea che la Carta Costituzionale del 48 da sé e indipendentemente da altre carte costituzionali, in particolar modo dai legami e dalle costruzioni europee che si sono realizzate in 50 anni, nel 2007 ci sarà il cinquantenario del Trattato di Roma, ci offra di per sé, in modo appunto autoreferenziale, la trama di un consenso, di un patto sociale tra cittadini. Ecco, questo sarebbe un peccato, perché viceversa noi dovremmo, diciamo, un po' ribaltare il discorso. Cioè, non pretendo ovviamente che nella campagna elettorale diventi egemone la linea per cui oggi in Europa si vede già in atto una federazione costituzionale. Non pretendo che appunto questa tesi, che oggi anche nel mondo accademico italiano forse